Ed eccoci qua, siamo una nuova puntata di Radio Transizione di Fase. Questa sera siamo in una versione un po', diciamo, all'arrembaggio, ecco, lo diciamo, ma questo non sorprende i nostri ascoltatori, che sanno bene, insomma, la scuola dalla quale proveniamo, ovvero quella di Ciccio Svelo. E questa cosa ce la rivendichiamo, insomma. Beh, oggi dovremmo fare una trasmissione un po' triste, molto triste, per gli ultimi accadimenti che abbiamo letto in rete, però siamo qui innanzi a un bicchiere di birra e vogliamo brindare numero uno alla morte di Rauti, perché insomma brindiamo, olè, sentite i bicchieri, sentite i bicchieri, e facciamo questo brindisi per una morte, ma brindiamo alla vita, brindiamo alla vita e brindiamo alla rivoluzione, brindiamo a tutte le persone che malgrado tutto, beh, sembra un po' brutto da dire, malgrado le circostanze, continuano a lottare in questa Italia di merda, lo diciamo, e cercano di fare qualcosa, cercano di discutere, di incontrarsi e di condividere le esperienze. Sfortunatamente questo accade sempre meno frequentemente e è alla base poi di quelle che sono gli stati d'animo del tutto negativi, che la mancanza di prospettive e di speranza che può spingere molte persone, molti di noi, molti lavoratori a compiere dei gesti veramente tristi. Abbiamo letto infatti in queste ore che un docente precario, non facciamo il nome perché non ci piace fare i nomi, un docente precario di 50 anni, vedendosi totalmente privo di ogni aspettativa, totalmente slegato da ogni possibilità di avere un futuro, diciamo, più o meno stabile, ha deciso di togliersi la vita. E uno dei suoi ultimi commenti su un noto social network diceva: oggi dovrei essere gioioso perché ho conseguito la laurea specialistica, ma sono triste perché il ministro Profumo ci sta distruggendo il futuro. Siamo precari a vita, ammettendo di essere fortunati. E questa riflessione, questo scritto ci lascia davvero l'amaro in bocca. Sì, siamo fortunati di essere precari e siamo fortunati anche di avere questo fantastico governo che ci spinge a gesti davvero deleteri per noi, deleteri per tutta la società. Oggi abbiamo una persona in meno fra noi, un docente, un collega, una persona che non conoscevamo, ma che sicuramente per quello che ha fatto ha dimostrato di avere un grande attaccamento al proprio lavoro, alla propria esistenza, al lavoro che ha svolto per anni e anni e anni e che gli è stato sottratto, che è sottratto a centinaia di persone oggi in Italia, lavoratori della scuola, studenti, lavoratori in generale di questa nazione. E noi non potevamo che riprendere a parlare qui su Transizione di Fase da Indie Radio con queste riflessioni, che come abbiamo detto non sono assolutamente felici, ma ci devono spingere ancora di più verso la lotta, verso la difesa delle nostre vite, delle nostre coscienze, e non dobbiamo mai più permettere che simili cose accadano. Ora io direi di ascoltare ancora un po' di musica, sempre su Radio Transizione di Fase, e a breve per altre informazioni. Vi ricordo comunque che Radio Transizione di Fase trasmette Indie Radio, un programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Indie Media Calabria. A breve altre notizie, però vi annuncio che parleremo soprattutto di scuola con un focus centrale su quella che è la situazione del territorio calabrese, soprattutto cosentino, in merito alle battaglie diciamo della scuola, degli studenti e dei precari della scuola. Quindi continuate ad ascoltare un po' di musica e a breve ritorneremo sempre qui su Radio Transizione di Fase. C'è qualche problema? No. Siamo sempre qui su Radio Transizione di Fase, state ascoltando Indie Radio, un programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Abbiamo aperto questa nuova puntata di Indie Radio con una notizia alquanto triste. Abbiamo parlato cioè di un docente precario che ha deciso di suicidarsi proprio perché le ultime manovre del governo stanno togliendo speranza e fiducia, lavoro e crescita e possibilità di autocoscienza alle masse che lavorano nella scuola, alle persone che sono impegnate nel mondo della scuola, ma questo accade nelle scuole come in tanti altri settori della vita sociale e lavorativa del nostro paese. Bene, dicevamo che avremmo parlato questa sera di questioni relative al mondo della scuola. scuola e ho qui con me alcuni esponenti. Finalmente abbiamo degli ospiti, quindi radio, insomma, finalmente. Abbiamo dunque questi esponenti del coordinamento di difesa della conoscenza di Cosenza e parleremo magari un po', se voi ne avete voglia ragazzi, parleremo di quello che sta accadendo nella città di Cosenza e in generale in Italia nel campo dell'istruzione. Sapete, brevemente lo dico, che in questi ultimi mesi il governo cosiddetto tecnico, avallato da tutte le forze governative, il PD, il PDL, l'UDC, FLI e quant'altri, stanno praticamente distruggendo il concetto di scuola pubblica in Italia, di istruzione pubblica e gratuita. Insomma, si parla di concorsi per i docenti precari, quindi non bastava aver sostenuto tanti corsi, concorsi e lavorato per anni e anni, anni nelle scuole, bisogna ora fare un concorso, non si attinge dalla graduatoria, bensì si fa un concorso, si spendono tanti soldi e intanto si cerca di aumentare il numero di ore lavorative per i docenti di ruolo, si cerca di abolire un anno nelle scuole superiori, quindi si abbassa l'obbligo, si abbassano il numero di ore, si abbassa la qualità dell'istruzione e intanto anche l'università, diciamo che non vive un ottimo periodo. Insomma, che cosa ne dici, Samuele? Intanto buonasera a tutti, mi trovo a essere il primo ospite, a quanto ho capito, di questo grandissimo programma. Allora sono, come dire, sempre sono emozionato, sono la prima prova in questo programma. Detto questo, andando a bomba sulla questione universitaria, prosegue il piano che da tanto tempo è messo in campo dai vari governi, ma in realtà sappiamo che i governi poi muovono solamente le ultime pedine, mettono in pratica un disegno fatto da altri. Questo disegno di cui stiamo qui a parlare è un disegno che, mette in ginocchio quello che è lo stato dell'istruzione pubblica e, in maggior ragione, parlando di università, lo stato delle università pubbliche. Queste infatti sono cose che già da tempo, la stessa Confindustria, ma prima ancora il mondo degli speculatori universitari, cioè quella burocrazia che molti chiamare baroni, che campano attraverso i soldi pubblici, ecco, il loro combinato disposto di queste due entità e eminenze grigie fa sì che chi oggi va all'università non sa a come fare a pagarsela, a fronte di rette e tasse universitarie che aumentano esponenzialmente a fronte di un calo sostanziale del diritto allo studio. Una cosa fortemente voluta, ricordiamo, dall'ultima riforma Gelmini, che aveva come unica misura del fondo, unica misura del diritto allo studio, i prestiti d'onore, che ricordiamo a chi non lo sa, sono dei prestiti che l'università fa a chi ha diritto ad avere ad avere un aiuto, che poi peraltro sono finanziati da i sensibili privati che vogliono concorrere le suore orsoline che ci vogliono dare una mano alla formazione secondaria. D'altro canto, ricordiamo una cosa che ci ha indignati profondamente, il fatto che per accedere a questo fondo tu dovevi pagare una tassa, cioè nel senso io pago per avere un diritto. Allora, questo è un esempio esemplificativo che fa capire qual è la situazione di chi, delle classi meno abbienti che si apprestano a vivere il mondo dell'università. D'altro canto, la formazione si consta anche di didattica, cosa che a fronte del taglio di personale, di cui anche i docenti precari ne sanno qualcosa, insomma, a fronte del taglio di personale e del fatto che il taglio di personale, come si suol dire, il citrolo cade sempre in culo all'ortolano, nel senso che quello che succede è che i baroni poi rimangono intoccati da questa riforma. Ora, quello che ci si sente da dire è che è giusto che nelle prossime, andando avanti in quello che è il nostro percorso di rivendicare un sacrosanto diritto all'istruzione, speriamo che si uniscono altri comparti anche dell'università stessa. I ricercatori, per esempio, che da tanto tempo sono rimasti come dire, addormentati. I nostri belli addormentati dell'università sono i ricercatori che l'anno scorso, 2 anni fa, hanno tenuto per le palle l'università, hanno bloccato i corsi, ricordiamo, e adesso, d'ora in poi, come dire, a un certo punto si sono addormentati, stupiti, sciolti. Questa è una delle tante domande che noi ci poniamo all'interno della cosa. Detto questo, noi non possiamo non passare la palla a, come dire, una delle eminenze grigie del movimento degli studenti cosentini, che quindi ci dirà la sua riguardo di quello che sta avvenendo negli ultimi giorni. Buonasera a tutti. Allora, la situazione nelle scuole non è molto differente da quella che abbiamo sentito fino adesso. Intanto, uno studente che una persona che vuole studiare fin da quando ha 16 anni, a 15 anni incontra i problemi. Perché? Perché uno dei primi problemi con cui ci scontriamo è sicuramente il costo dei libri, che ricordiamo non dovrebbe superare una certa cifra, ma spesso e volentieri nelle liste dei libri viene messo, vengono messi de come consigliati dei testi che in realtà poi sono obbligatori, per cui si arriva a superare dei tetti che già sono alti, per cui una famiglia che magari si trova due figli è costretta a spendere fino anche 1.000 euro per comprare i libri di scuola, se non è così fortunato da trovarli tutti quanti di seconda mano. Adesso, questo è solamente uno dei tanti aspetti della situazione che non è certo allegra, però sicuramente ci sono diciamo, delle possibilità. Perché? Perché se noi studenti iniziamo ad affrontare i nostri problemi, a parlarne insieme, a cercare di fare qualche cosa, sicuramente si va un po' avanti. E questa è una cosa che stiamo cercando di far partire e che sicuramente è una strada sicuramente difficile, perché non abbiamo davanti una strada semplice, però tante cose si possono fare. Adesso, a partire dal fatto, da una novità, quella che è una novità, noi sia come coordinamento della conoscenza, che sia qualcuno degli universitari, sia qualcuno degli studenti medi, insomma, ci siamo visti e abbiamo cercato di avviare, diciamo, un percorso comune, un'idea di movimento che possa andare al di là dalle rivendicazioni dei singoli, diciamo, comparti dell'istruzione, per cui gli studenti che rivendicano un qualcosa per sé, perché dobbiamo incominciare a renderci conto che i nostri problemi nella maggior parte dei casi sono comuni. Per cui solo nel momento in cui riusciamo a avviare un discorso davvero comune, forse riusciremo ad ottenere qualche cosa. D'altro lato, io volevo fare una domanda. Mi svesto di questa versi di universitario e faccio una cosa che Maria poi avrà modo di uccidermi a tempo. Se siete fortunati, lo assisterete in diretta. Occupo la leadership di questo programma e vorrei fare una domanda alla nostra cara eminenza grigia del mondo degli studenti. Ma la didattica nel mondo delle scuole, che siamo abituati a che, per quanto, come dire, riguarda io so, mi ricordo quelle lezioni frontali interminabili con professori che ti parlavano dell'Inter, cioè, io ho avuto un percorso per ricordare come vivono gli studenti medi la questione della didattica, che almeno per me l'universitario è una questione sulla quale abbiamo delle cose da dire. È una questione estremamente importante, le cose da dire sono davvero tante, a partire dal fatto che per un 18enne, un 16enne, è estremamente difficile rimanere seduto al banco con una pausa di 10 minuti per quelle 5, quelle 6 ore, seduto lì ad ascoltare quello che ti dice un professore. Adesso sicuramente i metodi di fare lezioni sono tantissimi, si dovrebbe avviare un po' un discorso diverso, per esempio fare delle lezioni che sono dei laboratori, in cui ci si possa confrontare non solo sicuramente sulle materie, ma anche su altre cose che forse ci riguardano anche più da vicino in molti casi. Per esempio, quello che sta succedendo. Però non, al momento queste cose non si vedono. Cioè, siamo nel 2012 e la situazione non è cambiata affatto e non cambia affatto da tanti anni. Bene, insomma, una panoramica abbastanza devastante è quella che ci hanno descritto ora i nostri studenti. Però volevo anche dire dire quello che avevo già precedentemente delineato in maniera abbastanza esigua, cioè la condizione anche dei lavoratori delle scuole. Perché da un lato negli anni scorsi, prima soprattutto della riforma Gelmini, si diceva che bisognava seguire i corsi universitari, quindi molte persone hanno seguito corsi, master, SIS, andando a attribuire alle varie università italiane una serie di fondi attraverso le tasse, e oggi invece tutti questi corsi d'improvviso vengono aboliti, vengono ritenuti quasi nulli, inutili addirittura. Ebbene, mentre alcune forze di governo prima, in particolare il PD, propugnavano queste nuove forme anche didattiche, no? Che avrebbero dovuto portare un'innovazione straordinaria all'interno delle scuole. Oggi vediamo invece, come abbiamo sentito dalla voce degli studenti, che tutto ciò non è accaduto. Non è accaduto per il semplice motivo che molti docenti, che comunque avevano un'impostazione diversa, erano stati preparati in maniera diversa ad affrontare le aule scolastiche e via dicendo, oggi vengono ritenuti inutili, vecchi, sorpassati, e quindi un concorso propugnato dal nostro caro ministro Profumo riuscirà a sopperire a tutto ciò. Il ministro Profumo in realtà continua a dire una serie di fesserie, e lo diciamo apertamente, perché diceva che questo bando, questo concorso sarebbe stato aperto a giovani neolaureati, ma è così, Samuele, è così? Non mi pare, visto che dire, le clausole di entrata, la chiusura di entrata sono quelle dei laureati fino al 2004, ricordo male. Esatto, entro il 2001, entro il 2004 altre tipologie. Quindi i giovani no, neolaureati non potranno attualmente, non possono accedere a questo concorso che, come dicevamo prima, è soltanto riservato a chi è già pluriabilitato e soprattutto a chi è già, nell'esperienza docente e non è di ruolo semplicemente grazie ai tagli della Gelmini, grazie a tutti questi tagli. E invece strutture politiche come il PD, che fino a poco tempo fa osteggiavano, per modo di dire, osteggiavano la riforma Gelmini, osteggiavano il governo Berlusconi per le sue posizioni in merito alla scuola, oggi invece non fanno altro che non solo sostenere la riforma Gelmini, ma spingere oltre. E quindi ci chiediamo, queste forze di governo, questo PD soprattutto, che gioco sta giocando? Ci chiediamo anche che cosa facciano i sindacati confederali, che da un lato dicono di essere ostili e via dicendo, ma poi stentano a decollare nella lotta. E forse perché Samuele, secondo te? Ma io credo, nella mia piccola esperienza, piccola piccola, cioè non ho intenzione di andare molto oltre, mi sono reso conto che molto spesso quando si muove un sindacato non si muove un gruppo di persone per come ce la immaginiamo, che mira a dare delle risposte ai loro tesserati, ai loro militanti, ma ci si muove un'organizzazione che ha come dire, il preciso scopo di difendere alcuni interessi che nel frattempo sono riusciti a inglobare all'interno della loro organizzazione. Mi spiego con un esempio in maniera chiara per evitare, come dire, di essere frainteso. Quando, per esempio, l'elezione del personale ATA, che è stata da poco per il Senato accademico, ci sono stati degli indipendenti che hanno nel bene e nel male portato un programma che si può discutere, ma è stata una candidatura di, come dire, un fronte che cercava di portare dei contenuti diversi, una propaganda, un'azione politica diversa all'interno dell'università. Cos'è avvenuto? È avvenuto che sindacati già stabilmente insediati all'interno dell'università hanno, come dire, fatto muro, hanno portato più, come dire, hanno trasportato persone all'interno delle urne con una percentuale altissima più delle altre volte per far sì che questa candidatura indipendente diventasse, come dire, fosse affossata e per sostanzialmente appoggiare nuovamente attraverso la loro vecchia politica, quella che hanno fatto e i verbali degli ultimi consigli di amministrazione ne è testimone. Ecco, appoggiare la politica del rettore che in qualche modo appoggiava lui stesso la politica del governo. Insomma, a che gioco stiamo giocando? Ebbene, quindi si parla di mobilitazione, tentativi di anche affossare alcune lotte, perché di quello stiamo parlando, ma in realtà le lotte nelle piazze continuano. Le lotte nelle piazze in questi ultimi tempi si sono viste, anche se il mainstream ovviamente continua a nascondere alcune lotte, alcune verità. E abbiamo visto come il gruppo Precari Uniti contro i tagli, da tempo impegnato nella battaglia per la difesa dei precari e per la difesa della scuola pubblica contro la legge Aprea, ad esempio, negli scorsi mesi è sceso in piazza. Ricordiamo il 22 settembre a Roma si era sceso in piazza contro il concorso che sfortunatamente è stato approvato, quindi a breve non sappiamo quando, malgrado i ricorsi, ci sarà questo concorso, magari non si farà mai, speriamo e ci auguriamo, ma ad ogni modo i Precari Uniti contro i tagli continua questa sua lotta, questa sua battaglia a livello nazionale e negli scorsi giorni è sceso in piazza anche al No Monti Day e dobbiamo dirlo, lo dobbiamo dire, è stato veramente lo spezzone più concreto, perché era frutto di un reale percorso di lotta, vero Samuele? Sì, io voglio troppo bene questo allo spezzone dei precari della scuola per due fondamentali motivi. Il primo è perché rappresenta non tanto, un'adesione in qualche modo formale che a volte si può dare a delle certe forme che si possono condividere, dei contenuti politici condivisi, ma rappresentava proprio una volontà verace, di un'incazzatura verace, e lo si è visto per le forme messe in pratica, che voglio dire, non erano spinte a conflittualità tremende, perché ancora la loro forza è precaria, così come la loro natura, ma era come dire, vissuto attraverso conti, attraverso come dire, canti o manifestazioni folcloristiche che ne facevano come dire, lo spezzone che ha tra quelli che ho visto più colorato e combattivo all'interno, cioè veramente una parola verace, no? Mi sono innamorato dei precari della scuola. Ebbene sì, perché le lotte, le battaglie scendono in piazza solo quando c'è un percorso politico ben definito. Non si può pensare di scendere in piazza a bacchetta, a tavolino o su comando di qualche nucleo centrale fantomatico e via dicendo. Le lotte e le battaglie sono reali quando c'è un'esigenza alla base, e l'esigenza oggi è difendere non un posto di lavoro, perché i precari della scuola organizzati, perché quelli che non sono organizzati se ne stanno semplicemente a casa a lamentarsi, a dire ah non vogliamo fare il concorso, ah io voglio il posto, e magari cercano di fregarsi gli uni gli altri, perché questa è la realtà. Ma i precari, i lavoratori precari della scuola, gli studenti della scuola, dell'università che si organizzano, si auto-organizzano, sono persone che sentono il problema e sentono soprattutto l'esigenza di difendere e di migliorare in particolare la scuola e l'istruzione pubblica italiana. Certamente la battaglia non finisce qui, la battaglia non si è conclusa sicuramente con la questione del concorso, non si concluderà nemmeno con la questione delle 24 ore. Oggi sappiamo che con il decreto sviluppo si parla di docenti perdenti ruolo che verranno riutilizzati attraverso fantomatici corsi che non sappiamo nemmeno come saranno, saranno riutilizzati per il sostegno. Questo significa che una persona, un docente che non ha mai avuto a che fare con i precari, con persone diversamente abili, con 40 ore di corso magicamente si troverà esperto della materia e si troverà a gestire classi e non studenti, classi in cui ci sono diversità. E questo significherà che le diversità verranno marginalizzate ancora di più, e che un sistema che non diciamo che era perfetto, ma comunque aveva dei risultati come quello delle scuole italiane, in cui si prevedeva l'integrazione e la presenza e la valorizzazione della diversità, oggi in realtà verrà utilizzato semplicemente come tappabuchi per quanto riguarda docenti che sono perdenti ruolo grazie ai tagli. Quindi è veramente un sistema che si morde la coda, un sistema che non va da nessuna parte se non verso la privatizzazione. Dicevamo prima, nelle università quello che sta accadendo, si stanno esternalizzando i vari servizi alle utenze, non ai cittadini e non agli studenti e non ai lavoratori, e quindi si va verso questa tendenza. Infatti io ho ascoltato negli scorsi giorni nell'aula occupata P2 una assemblea di facoltà aperta dove sono state dette cose molto interessanti. Ecco, io vorrei discutere di questo. Quali prospettive oggi si dà per esempio all'Università della Calabria, agli studenti auto-organizzati dell'Università della Calabria, per contrastare queste tendenze, per rivendicare i diritti non dello studente, non del singolo lavoratore, ma di una comunità? Vede, il discorso è interessante, appunto perché interessante e complesso. All'interno di questo ragionamento sull'occupazione, all'interno del mondo dell'istruzione, avviene un fenomeno particolare di cui dopo un po' di tempo noi impariamo, stiamo imparando come studenti, che noi cresciamo attraverso come questa università, che è il confrontarci con i nostri diritti. Ecco, all'interno di questa situazione noi ci siamo resi conto che, così come ci sono fabbriche che producono automobili, l'università, come altre parti dell'istruzione, produce didattica. Chiaramente la ricerca è funzionale alla didattica, ma è un argomento particolare dell'università, che possiamo così, con un taglio barbaro alla Gelmini, possiamo definire come didattica. Mettiamolo così, la didattica fondamentalmente, per molti, per alcuni, per chi governa e amministra il mondo dell'istruzione, la didattica è un po' come un ufficio di collocamento. Sostanzialmente viene a essere inserito in un percorso di, come dire, cattedra, formazione, eccetera, eccetera, colui il quale, come dire, ha fatto dei percorsi all'interno cioè è entrato all'interno di questo mondo che è l'Università della Calabria, per esempio, in cui non ci si scontra, per esempio, con noi quando parlavamo di Gelmini con il governo, ci si scontra con un apparato burocratico, come quella che è la serie di professori, di come dire, ricercatori anche, che sono entrati all'interno del mondo universitario, per dinamiche che non nulla hanno a che vedere con quella che è la formazione degli studenti, cioè nulla hanno a che vedere con quello che dovrebbe essere l'obiettivo finale dell'università, cioè quello di far crescere quella che è la capacità di comprendere le dinamiche e di intercettare, di entrare nelle dinamiche sociali, che siano esse essere un ingegnere, che siano esse, come dire, essere un filosofo, un antropologo. Comunque ciascuno di noi deve avere gli strumenti per comprendere la realtà che ci sta attorno e quindi entrarvi attraverso, come dire, il proprio percorso. Questo non è il loro obiettivo. Il loro obiettivo è, da una parte, come dire, quello di passare nozioni sempre più tecniche, sempre più parcellizzate, sempre più piccole, dettagliate, sempre più, come avviene in alcune università, la scienza, la tecnica, come ingegneria dell'automobile, per esempio, a Torino. Torino è anche sede di un noto marchio di automobili. Oppure ingegneria, oppure scienze della nutrizione applicate, scienze della nutrizione, se non sbaglio, a Bologna, applicate ad un certo tipo di elemento, come possiamo pensare alla barilla, diciamo due cose a caso, due riferimenti non proprio lontani dalla realtà. Quello che come dire, ci troviamo a, con cui ci troviamo a confrontarci è quello che è, dire, il mondo della formazione, perché il mondo della didattica. Ora, vediamo che nel processo di ristrutturazione applicato dalla Gelmini, che è quello che prevedeva il cambio di statuto, che possiamo assimilare come una riforma di costituzione dell'università, c'è stato anche, come dire, la riforma degli organi di gestione dell'università, che sono stati ridotti di numero, sono stati ridotti, come dire, di partecipazione rispetto alla comunità accademica, anzi, una percentuale degli organi di gestione, viene relegata agli esterni all'università, proprio per voler svilire ancora il ruolo della comunità universitaria. Questo per dire che cosa? Questo per dire che allora, adesso, all'atto pratico, mancano i regolamenti, mancano gli elementi che ci permettono di capire chi è il responsabile della didattica, che va dalle ore, dal fissare l'orario di lezione, a capire quale programma mettere in campo, a capire, per esempio, anche quando si diceva i lavoratori, anche il personale ATA viene trattato alla stregua di una mobilia, come dire, di un elemento, capito, di un immobile universitario. Quindi, la battaglia sulla didattica è importante perché dietro questa battaglia c'è la ri ripresa di cioè la riprendiamoci la gestione dell'università sostanzialmente. E insomma, il panorama che abbiamo di fronte è semplicemente un caos voluto per giustificare emergenzialismi e da lì prendere decisioni che sono maturate già altrove e chissà quanti anni prima. Bene, io direi che il tema che abbiamo trattato questa sera è veramente molto ampio e molto vasto e molto probabilmente transizione di fase, molto probabilmente Indie Radio continueranno a seguire la questione. Magari, che ne sappiamo, prima o poi potremmo anche pensare di fare un programma ad hoc sulla questione con cadenza settimanale, mensile, quindicinale, non lo sappiamo, la lancio ora così mi è venuto in mente. Bene, io direi che vogliamo dire altre cose oppure diciamo le ultime. Intanto io ricordo quello che accadrà in questi ultimi giorni, c'è il 14, vabbè, c'è questa iniziativa nazionale, via dicendo, anche a Cosenza si sta pensando di scendere in piazza, ma la diversità qual è? Non si ha nessuna intenzione di fare numeri alla CGIL, lo diciamo. Non abbiamo alcunissima intenzione di scendere in piazza per fare numero. Se si scende in piazza lo si fa semplicemente per rivendicare le nostre istanze, le istanze del territorio, le istanze della nostra realtà. Non aspettiamo nessuna chiamata dall'alto, fondamentalmente, vero Samuele? Sì, certo, le uniche chiamate dall'alto che sentiamo sono un po' le vocazioni, le cose, è una questione un po' giudaico-cristiana, No, insomma. non mi trovi d'accordo, non mi trovi d'accordo. No, no, no. Va bene, qui, avverto contestazioni. Ancora una volta mi svesto dei panni della cosa per occupare Quindi è un ancora, po' conduttore questa sera. esatto, per occupare il posto di co-conduttore. E quindi vado a fare di nuovo il mio ruolo di intervistatore. Ora, la questione sulla didattica, che prima mi ha svelato alcune cose che io non pensavo, cioè la similitudine tra il vivere condizioni un po' di non avere pausa, la carenza di attenzione, mi porta anche a ripensare ai miei anni di liceo in cui io ho fatto come dire, grandi fricate di sonno, partite a carte, lo confesso, confesso che ho vissuto, diceva Pablo Neruda, cioè è questo per dire che la didattica è quindi un elemento che ha a che fare come dire, con la nostra stessa formazione. E in questo mi domando e dico, i programmi per esempio di storia che si fermano alla prima guerra mondiale, oppure i programmi come dire, didattici che non toccano le cose oppure che toccano in maniera come dire, superficiale quelle che dovrebbero essere il nostro diritto a conoscere, a sapere. E sono ancora così all'interno della scuola. Ecco, la scuola, come immag possiamo immaginare i programmi di studio, i programmi di studio della scuola dell'obbligo? Allora, non solo è ancora così, ma è anche peggio, forse perché parlavamo l'altro giorno con l'insegnante di matematica. Praticamente, addirittura sono state sottratte ore, no, all'insegnamento di ciascuna materia in modi diversi, è una cosa un po' complicata, però i requisiti richiesti allo studente poi rimangono gli stessi. Per cui ci si trova a svolgere uno stesso programma, uno stesso programma, se non maggiore, nello stesso tempo, se non minore. E questa è una cosa estremamente sbagliata, tant'è che se no, tu non trovi il professore in gamba che si prenda la responsabilità di togliere laddove deve, per cui una cosa che sa che non ti servirà mai, no? Tu devi correre, devi inseguire questo programma, che è praticamente una cosa astratta, perché se tu vai a vedere in ogni scuola, in qualsiasi classe, a maggior ragione quando si parla dell'ultimo anno, non ti troverai mai al passo con il programma, mai. Per cui ti trovi gli ultimi 6 mesi di scuola, quando ti va bene, a dover correre, a dover rimmagazzinare informazioni in una maniera estremamente poco costruttiva, perché poi alla fine si tratta più che altro di memoria, senza contare, per esempio, che il programma di storia realmente si va a fermare alla Seconda Guerra Mondiale, quando, insomma, riesci a trattarla bene come si deve. Ecco, la cosa che immaginavo, così come la didattica è esemplificativa del ragionamento comune che stiamo portando avanti. C'è una professoressa dell'università che arrivano a fine corso e dicono, cari ragazzi, il programma che vi ho spiegato adesso è tre quarti, quasi metà del programma che voi dovete sapere all'esame. Tanti saluti, ci vediamo tra 3 giorni in cui sarà l'esame. Ora, il ragionamento che stiamo portando noi avanti all'università è quello di immaginare, come dire, una didattica che non parta semplicemente da programmi nazionali e che non parta semplicemente da come dire, la famosa chiamata dall'alto giudaico-cristiana di cui Maria è una delle principali, come dire, in cui Non si. dire stronzate. Va bene, torno subito sulla linea. Potrebbe essere una cosa interessante anche per gli studenti medi, una cosa del genere. Immaginare come dire, un percorso di condivisione, che il programma degli studenti venga anche un po' dagli studenti stessi. Senz'altro, senz'altro, senza dubbio, bisognerebbe anche e soprattutto partire, soprattutto in alcune materie, partire da elementi, diciamo, di attualità. E, se noi non impariamo a ragionare sui problemi che viviamo oggi, e, questo sicuramente è una maturità che ci viene anche dallo studio delle cose passate, ma diciamo nella vita concreta riusciremo a fare ben poco. Bene, speriamo che si riesca davvero a costruire una scuola a misura di studenti, a misura di lavoratori, un'università a misura di studenti, a misura di lavoratori, e per lavoratori intendiamo non solo i docenti, ma anche tutte le persone impegnate nel funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative. Bene, io vorrei concludere questo nostro excursus sul mondo dell'istruzione ricordando quello che oggi, in questo momento, sto leggendo in rete, ovvero c'è la proposta di un collega di Cosenza che dice di recarci tutti quanti al CSA di Cosenza, che vi ricordo si trova nel centro storico di Cosenza, vicino il Rendano, sul corso Telesio, e per deporre un fiore, un lumino, in ricordo del collega che si è tolto la vita. Certamente noi scherziamo, qui stiamo bevendo, insomma, non potete avere idea di quello che... No, stiamo facendo niente di che, però veramente rimaniamo fortemente toccati da questa vicenda, quindi l'invito, vogliamo rendere nostro l'invito del collega Costantino, che dice di deporre dei fiori e dei lumini al CSA di Cosenza, il ricordo del collega precario che si è tolto la vita. Con questo fatto triste, insomma, noi vi lasciamo. Speriamo di non avervi annoiato, insomma, speriamo di essere stati anche un pochino costruttivi nelle nostre analisi. E vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Indie Radio, che potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 9, alle ore 21. Vi ricordo che Indie Radio è un programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Chiunque vuole può partecipare al nostro progetto seguendoci su www.calabria.indimedia.org. Noi vi lasciamo alla musica, alle selezioni musicali di Radio Transizione di Fase, e vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo venerdì. Grazie per averci ascoltato, grazie a tutte le persone che hanno dato segnali, ringraziamo Oreste che, insomma, questa volta ci ha affunto da regia lontana. Ciao Oreste, ringraziamo Giuseppe, ringraziamo Maria e ringraziamo tutti i colleghi e tutte le persone che ci hanno ascoltato. Stavo dicendo compagni, ma ci sta pure tutti i compagni che ci hanno seguito. Va bene, con questo è veramente tutto, arrivederci, ciao ciao.